classico blues viene giù da una chitarra sola, è la vita che non viene più come veniva giù prima. No, dei rimpianti tu non ne hai, hai fatto tutto in fretta, eri un tipo precoce, un po' troppo veloce per una vita sola. In netta diminuzione il numero degli arrivi di profughi in Germania. Nel nord Reno-Vestfalia si è addirittura dimezzato rispetto all'anno precedente. E anche i centri di accoglienza ricavati da palestre scolastiche stanno diminuendo e si torna piano piano alla normalità. Ma come funziona il rapporto tra gli scolari e i rifugiati che vivono nelle palestre della loro scuola? Cristina Giordano è andata a visitare un istituto italo-tedesco di Colonia, dove per far incontrare i bambini siriani con quelli tedeschi e italiani si è organizzato uno spettacolo circense. Turno, i bambini scostano il tendone nero e salgono su un palco immaginario. Provano i numeri dello spettacolo, mentre un giovanissimo batterista sottolinea i volteggi dei piatti di plastica dei giocolieri. Sono le ultime prove per affinare la tecnica e imparare a inchinarsi davanti ai meritatissimi applausi. Poi si canta tutti insieme. Alla scuola elementare italo-tedesca Vincenzstadt di Colonia il circo è una cosa seria. Si prova per lo spettacolo messo in scena da 150 bambini, con l'aiuto di qualche genitore volenteroso e degli insegnanti, e che si terrà sabato. Per l'occasione i piccoli si sono improvvisati equilibristi, pattinatori acrobatici e persino fakiri. Io mi chiamo Alessia, ho una tavola piena di chiodi e devo mettermi lì sopra. Sei una dei fakiri? Sì. Ma non ti fai male? No, non fa male. Io mi chiamo Emanuele, faccio l'equilibrista, con i miei altri amici è divertente, dobbiamo ancora portare i costumi ma... Elisa, faccio con i pattini qualcosa, faccio una coreografia, mi diverte tanto. Mi chiamo Daniele, faccio magie, faccio scomparire gli oggetti, tipo le monetine finte, pure le matite con i miei amici. Io mi chiamo Francesco, faccio così un piatto di plastica con un bastone che devo ruotarla, devo farla anche saltare. Caspita, è difficile! È difficilissimo. Sembrerebbe un normale saggio di fine anno, e invece questo spettacolo, nato come uno dei tanti progetti annuali per invitare all'esercizio fisico, è diventato molto di più. Tra i piccoletti sgambettanti e urlanti ci sono anche dei timidi rifugiati, bambini che arrivano dall'Iran, dall'Afghanistan e dalla Siria, con gli occhi curiosi di chi si sente spaesato pur abbozzando un sorriso. Scheiße, Sharif. 14 Jahre alt. Ich komme aus Syria. Ja, mein Bruder, meine Schwester und Mama Syria. Ich und Baba hier. Und du, habe ich gehört, du machst eine Pyramide. Ist das richtig? Ja. So? Oben mit den anderen ganzen Kindern? Ja. Sharif ha 14 anni, anche se per la statura e la magrezza ne dimostra 10. La sua casa è pochi metri più in là. Nella palestra della scuola è stato infatti allestito un centro di accoglienza e nonostante gli ostacoli iniziali della burocrazia teutonica che impediva ai piccoli rifugiati di giocare con gli altri bambini, alla fine la voglia di integrazione ha vinto e il gioco è per i piccoli siriani e iracheni la terapia più semplice per allontanare il più possibile le immagini dei conflitti, così come il lungo viaggio che li ha condotti in Europa, l'insegnante Giuseppe Giurano. Sono, mi pare, 11 famiglie e 50 persone, tra cui 20 bambini e 30 adulti circa. Occupano la nostra palestra già da gennaio di quest'anno e all'inizio non potevamo avere contatti con i bambini, però poi dopo un certo lavoro siamo riusciti ad avere contatto e loro vengono veramente una volta a settimana con la quarta B e con loro giocano, leggono, si intrattengono. Vedo questi ragazzi giocare a calcio, rincorsesi, giocare con al cavalluccio, piccoli e grandi insieme, è una cosa fantastica. In Germania i bambini rifugiati hanno l'obbligo di andare a scuola, ma non è sempre così e le regole cambiano a seconda del Land. In alcuni casi l'obbligo coincide con la richiesta di asilo, in altri inizia dopo 3 o 6 mesi. Secondo uno studio del Ministero dell'Interno, da settembre tra i 90 e i 120.000 bambini dovranno sedersi dietro i banchi di scuola e pare che manchino all'appello oltre 20.000 insegnanti. Mentre lasciamo alla politica e le amministrazioni comunali trovare delle soluzioni entro lo squillo della prima campanella, qui alla Vincenzstadt ci si diverte. Il circo non ha bisogno della conoscenza della lingua, perché la lingua universale è un'altra. Con dei gesti, dei mimi in faccia. Con la mimica. Sì. Con la mimica, giusto. Stiamo da tanto tempo insieme e facciamo oggi la piramide. E com'è stato con questi ragazzi siriani, questi bambini siriani? Come vi parlate? Parliamo in tedesco. All'inizio è stato difficile, ho avuto bambini che non parlavano tanto, ma adesso siamo con un bambino che ci capisce molto, è divertente fare con lui e sì. Le arti circensi da tempo sono state riconosciute come strumenti efficaci contro l'emarginazione sociale e per la formazione dei giovani a rischio. Il circo sociale favorisce la solidarietà, l'autostima e la comunicazione. Il circo della Vincenzstadt a Ehrenfeld, nel quartiere multiculturale di Colonia, non ha questa ambizione, ma dimostra che anche piccoli progetti come questo possono aiutare l'integrazione. Speriamo che nessuno si faccia male perché... perché è pericoloso? No, alcuni sono già caduti, ma... Meine Damen und Herren, jetzt kommt als nächste, oh Mann, als nächste, hä? Als nächste, die Muskelbolz. Beh, vabbè, ancora un po' di tempo per fare gli scioglilingua ce l'hanno e per provare soprattutto. Sabato dalle 10.30 del mattino si terrà lo spettacolo nella palestra della scuola Vincenzstadt Grundschule nella Heferalstrasse di Colonia. Passo pomeriggi a schiacciare le formiche, a cullare questo cuore senza amore, mentre le zanzare fanno male. Cerco un po' di fresco per dormire, ma tu sei lontano, non vorrai tornare qui. E mi stendo sopra il davanzale, questo fresco sa proprio di mare. Un treno da lontano sta scappando, al cielo io mi ci raccomando. Amore, amore, mentre ti aspetto, ti prego. L'estate sul mare. sprofondata nelle ombre di un sogno, a sognare un'altra estate da passare dentro quattro birre e un cannone per calmare la disperazione. Cerco il paradiso che sai darmi solo tu. Amore, amore, mentre ti aspetto, ti prego, arriva presto, arriva presto, perché la sera non so proprio stare senza amore, l'estate sul mare. L'estate sul mare, senza amore, l'estate sul mare, Un anno fa la strage nel resort di lusso a Sousse in Tunisia, quando un comando armato aprì il fuoco in spiaggia. Da allora gli sforzi che la Tunisia ha compiuto nel campo della sicurezza e della lotta al terrorismo sono stati enormi, grazie anche alla collaborazione di molti paesi stranieri, e qualche timido segnale di ripresa comincia a registrarsi a partire da questo inizio di stagione. Ma rimane il fatto che il calo dei turisti nel 2016 è stato molto alto, oltre il 90% in meno rispetto ai primi 5 mesi dello scorso anno. Molti hotel hanno chiuso i battenti. E allora, come si vive oggi in Tunisia? Tiziana Caravante ci è andata e ha incontrato anche qualche italiano. Sono Giuliana Giuntoli. Sono nata nel 40 a Pistoia, mi sono sposata con mio marito Mohamed Ben De Salem, sono venuta in Tunisia nel 1964. Siamo nella sede dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, qui incontro Giuliana Giuntoli, un'elegante signora toscana che negli anni 60 incontra a Parigi l'amore della sua vita, Mohamed, un affascinante tunisino che sposerà e seguirà nel suo paese d'origine. Andranno a vivere nella Tunisia dell'allora presidente Habib Bourguiba, leader della lotta per l'indipendenza e poi fondatore della Tunisia moderna. Nel 64, quando sono venuta qui, si sentiva la Tunisia europea. Per esempio i sarti erano tutti italiani, all'epoca calzolai tutti italiani, e vivevano vicino alla Medina, o nella Medina anche, quindi molto vicino ai tunisini, o avevano clienti tunisini, mentre ora penso che ci sia una netta differenza. La Tunisia è un paese che tradizionalmente ha sempre avuto una forte immigrazione italiana. Di questo fenomeno, di cui si sa poco, se ne è occupato Alfonso Campisi, ordinario di filologia romanza alla facoltà di lettere all'Università La Mauba, e autore del libro L'immigrazione siciliana in Tunisia tra il XIX e XX secolo. Proprio dopo l'Unità d'Italia abbiamo avuto una grossa presenza siciliana, soprattutto in Tunisia. Abbiamo avuto una grossa comunità che addirittura si avvicinava intorno ai 200.000 persone su 70.000 francesi. La maggior parte sono dei contadini, dei muratori, degli ebenisti, e hanno proprio creato, veramente hanno costruito questo paese. Poi ci stava una piccola parte, il 10% invece, che erano dei livornesi, e lì è la comunità ebraica, quindi erano medici, insegnanti, maestri di scuola, quindi insomma un po' di tutto. Ma nel 1956, con la fine del protettorato francese, il governo tunisino sequestra i beni terrieri degli italiani e dal 1960 in poi migliaia di famiglie debbono decidere se restare in Tunisia o rientrare in Italia, in quel paese a loro sconosciuto e dove molti dei quali, non avendo parenti e conoscenti, saranno costretti a vivere nei temutissimi campi d'accoglienza che l'Italia allestirà in varie città italiane. Oggi gli italiani iscritti all'AIRE sono meno di 5.000, ma quelli effettivi sono almeno 8.000. Chi ha deciso di stabilirsi in Tunisia è attratto dai forti vantaggi economici e fiscali che offre il paese. Il costo della vita è ancora basso e investire in turismo, ristorazione, industria tessile e agroalimentare significa risparmiare tasse. Per le imprese straniere le imposte non superano mai il 15% degli utili e quindi chi ha una buona idea ed un piccolo capitale può avere facilmente successo in un paese che ha sempre simpatizzato per la lingua e cultura italiana, come ci racconta Maria Vittoria Longhi, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi. L'italiano, diciamo, è sempre stata una lingua molto vicina, un po' per prossimità ovviamente geografica, diciamo, un po' perché ci sono sempre stati moltissimi scambi con gli italiani, moltissimo per la RAI, perché appunto la RAI è, diciamo, produceva i suoi programmi e si potevano vedere i programmi RAI prima ancora della televisione tunisina, quindi ovviamente c'è una generazione che è cresciuta con i nostri programmi, la chiamano proprio generazione RAI, e quindi moltissimi sono in grado di capire, di parlare, ma di capire sicuramente l'italiano. C'è una situazione molto particolare, molto favorevole alla lingua italiana, perché nei licei tunisini è molto studiata la nostra lingua e ci sono 6 università del paese in cui si può studiare l'italiano e una in cui c'è il ciclo completo, quindi ci si può prendere fino al dottorato in lingua italiana. La rivoluzione dei Gelsomini ha aperto quindi la Tunisia ad un nuovo modo di percepire e accettare l'immigrazione dall'Italia e da altri paesi europei. È un paese che ha voglia di fare e che merita, dopo anni di repressioni politiche, il suo riscatto sociale ed economico. Turn up the sound system to the song. It's an international love song. Moving on and on. Holding on and on. La prima volta che ti ho vista l'ho capito presto, che saremmo scappati insieme da tutto questo. Quando parti a volte duro può mancare il cielo, ma solo viaggiando si può crescere davvero. Leggiami, applica tutto e mi ciccia la borsa. Portami tutti alla larga, molesta realtà. E ricorda che ogni cosa che trascuri non ritornerà, forse non ritornerà. Ti racconterò mille storie d'amore con un filo di voce. E se ti rubo un bacio quando sei distratta, in fondo che male c'è? Portami con te in questo viaggio senza meta né destinazione. Portami con te, portami con te, ancora un po' più in là. Yeah, big girl, take a bag of clothes, leave it all behind. So please don't tell nobody, it's a no return flight. Take a step to this brand new life. We have a secret to hide, yeah. We could have lived all alone on this Caribbean island for so long and on and stay away from the chaos, we don't break the silence. Hold on. Ti racconterò mille storie d'amore con un filo di voce. Se ti rubo un bacio quando sei distratta, in fondo che male c'è? Portami con te in questo viaggio senza meta né destinazione. Portami con te, portami con te, ancora un po' più in là. Ti porterò via dove il sole non muore, dove non c'è niente da perdere. Se non troveremo più nuove parole, ci basta uno sguardo per credere. Se niente dura per sempre, corri che il tempo non ci aspetterà. Non sarai mai così distante, un filo di voce ti raggiungerà. Ti racconterò mille storie d'amore con un filo di voce. Se ti rubo un bacio quando sei distratta, in fondo che male c'è? Portami con te in questo viaggio senza meta né destinazione. Portami con te, portami con te ancora un po' più in là. Colonia. Le notizie del giorno. E sono le 19:25 minuti, queste le altre notizie di oggi. Ok al sostegno pubblico alle banche italiane, una garanzia statale fino a 150 miliardi per il sistema bancario. Oggi pomeriggio la Commissione europea ha annunciato il via libera alla richiesta dell'Italia di poter utilizzare una consistente garanzia pubblica per sostenere, qualora se ne presentasse la necessità, il sistema creditizio. La portavoce della Commissione europea ha sottolineato che l'Italia ha chiesto la misura per ragioni precauzionali e che non c'è l'aspettativa che emerga la necessità di usare lo scudo. In Italia, il Movimento 5 Stelle gela il PD su un possibile accordo per modificare l'Italicum. La legge elettorale non è una priorità, ha scritto su Facebook Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera e membro del direttorio dei 5 Stelle. Sentiamo Danilo Toninelli dei 5 Stelle. Questa legge, l'Italicum, è stata scritta per non farci vincere, oggi ci potrebbe far vincere, non ci interessa perché fa perdere la democrazia, non può essere migliorata né togliendo un pezzo né aggiungendo un pezzo, deve essere cambiata. Più diretto contro Renzi è stato l'attacco di Alessandro Di Battista, altro membro del direttorio. Fino alle vittorie dei 5 Stelle a Roma e Torino, ha detto Di Battista, l'Italicum era la legge migliore al mondo, ora Renzi è pronto a cambiarla. In Toscana, rissa nel cuore della notte tra forze dell'ordine e cittadini cinesi a Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. I carabinieri hanno arrestato due cinesi accusati di resistenza a pubblico ufficiale durante i tafferugli. Circa 300 persone si erano radunate in strada per protestare contro i controlli che regolarmente si svolgono sul territorio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. La situazione è poi tornata alla normalità, proseguono intanto gli accertamenti anche da parte della Digos per ricostruire la dinamica dei disordini e le eventuali responsabilità dei singoli manifestanti. Gran Bretagna, l'ex sindaco di Londra Boris Johnson rinuncia alla candidatura alla guida dei Tory. Il leader carismatico della Brexit era stato dato per certo alla successione del premier conservatore David Cameron. Sentiamo Johnson. I have concluded that person cannot be me. My role will be to give every possible support to the next conservative administration. Ora sono in cinque i possibili candidati, in corsa anche il ministro della giustizia Michael Gove al governo di Johnson nella campagna, al fianco di Johnson nella campagna pro-Brexit. Forte la posizione della ministra dell'interno Theresa May, che rappresenta quella parte dei Tory a favore della permanenza nell'Unione Europea. Entro il 9 settembre sarà eletto un nuovo leader di partito. In Turchia sale a 43 il numero delle vittime del triplice attentato suicida all'aeroporto di Istanbul. Oltre 200 i feriti, diversi gravi. I tre attentatori provenivano dal Caucaso e dall'Asia centrale e avrebbero affittato un appartamento un mese fa nel popoloso quartiere di Fatih. E proprio in quel covo sono stati trovati i loro passaporti. Intanto la polizia ha arrestato 13 persone in raid in alcuni appartamenti di sospetti militanti dello Stato Islamico a Istanbul, tra loro anche tre stranieri. In Germania aumentano le nascite. Nel 2015 l'Istituto di Statistica Federale ha calcolato 738.000 neonati, il 3% in più rispetto all'anno precedente e il picco più alto da 15 anni a questa parte. Allo stesso tempo sono aumentati anche i decessi, che con più di 900.000 casi continuano ad essere superiori al numero delle nascite, un trend che prosegue dal 1972. E con questa notizia è tutto. Radio Colonia, il tuo programma su Funkhaus Europa. sono la gatta sul tetto e rubo il vento per me. Dove sei? Tardi e non lo sai che ho bisogno di te. Con chi sei? Il fumo mi consuma, sai, di notte sono gelosa. Me la pagherai. Fammi sentire che sono una donna, senza bisogno di mettere una gonna. Fammi scoprire il mio essere gentile, senza bisogno di farti da mamma. Voglio trovare un paio di risposte a queste insopportabili domande, sul senso vero della vita insieme, sul senso della vita mia. Voglio rimanere essere immagata e diventare un po' più intelligente. E quando sbatto la faccia sul muro, scoprire che non era abbastanza duro. Lo abbiamo anticipato nei giorni scorsi, da domani, 1 luglio, nel contesto della riforma dei programmi di Funkhaus Europa, Radio Colonia avrà un nuovo orario e un nuovo formato. Per capire meglio che novità ci aspettano, ho qui in studio Tommaso Pedicini. Ciao Tommaso. Ciao Filippo. Innanzitutto l'orario, da domani cambia il nostro appuntamento con gli ascoltatori? Sì, da domani Radio Colonia trasmetterà ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 18. 8:30 in diretta streaming in internet sul nostro sito Funkhaus Europa. La trasmissione sarà poi scaricabile subito dopo le 18:30 come podcast senza la parte musicale o come audio on demand con la musica. E chi vuole continuare ad ascoltarci in radio, su frequenza o in digitale che sia? Potrà continuare a farlo dalle 21 alle 21:30, infatti trasmetteremo la ripetizione del programma delle 18 sulle nostre abituali frequenze e naturalmente in digitale. Quindi in replica dalle 21. Ci sono novità anche per quanto riguarda i contenuti del nostro programma? No, quanto ai contenuti non sono previsti grandi cambiamenti, cercheremo di essere ancora di più rispetto al passato la radio per gli italiani che vivono in Germania e per i tedeschi che amano la nostra lingua e cultura. Rispetto a prima saremo forse meno legati all'attualità contingente e in questo senso non avremo più un notiziario come adesso, ma daremo più spazio ad approfondimenti, commenti e e servizi che interessano la comunità e naturalmente al meglio della musica italiana. Inoltre la pagina Facebook che abbiamo inaugurato da poco più di una settimana e che sta avendo un buon seguito ci aiuterà a dialogare di più con gli ascoltatori. E quindi l'appuntamento è a domani alle 18 con la puntata numero 1 della nuova Radio Colonia. Grazie Tommaso. Grazie a te e a domani. Caso mai ci ripensiamo, siamo fatti così. Tu ti arricci, io i capricci, ma va bene così o giù di lì. Rivestirsi, pettinarsi e là fuori via vai, via vai. Meglio a letto in mutande che ti toglierei. Permanente nella mia mente, sono sicuro starai, starai. Casomai fra qualche mese tutto volterese. Siamo fatti così, da sempre così. Amore, non dare lo stop al mio cuore sotto shock. Il mio cuore fa choc, il mio cuore batte rock, ma il mio cuore allo stop, cuore sotto shock. Casomai restiamo amici, non si dice così. Mi trafiggi e poi soffriggi e te ne vai, ma dove vai? Permanente foglio volante nel vento dei miei guai. Casomai fra qualche mese usciamo a fare spese. Siamo sfatti e così, ognuno ha i suoi dì. Amore, metti il verde allo stop, il mio cuore è sotto shock. Il mio cuore fa ciò, il mio cuore batte rock. Cuore allo stop, cuore sotto shock. Il mio cuore fa shock, il mio cuore batte rock. Il mio cuore allo stop, cuore sotto shock. Il mio cuore fa shock, il mio cuore batte. E il weekend è alle porte, ecco alcuni appuntamenti culturali consigliati da Angela Sinesi. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Appuntamenti. Sabato a Düsseldorf la professoressa Sieglinde Bowitz e la dottoressa Vera Gerling organizzano una lettura di brani tratti dai libri Vita da cani e Anna. I due libri sono delle raccolte di racconti contemporanei facenti parte della serie Düsseldorf Übersetzt. La lettura di brani è sabato alle 16.30 presso il Haus der Universität di Düsseldorf. Domenica a Berlino, nell'ambito della rassegna Cinema Aperitivo, potrete vedere il film di Emanuele Caruso E fu sera e fu mattina. Ad Avila, un piccolo comune in provincia di Cuneo, durante la festa patronale arriva dalla televisione un messaggio che terrorizza la comunità. Nel giro di pochi giorni il sole esploderà e la terra verrà distrutta. Nell'imminenza della fine, ognuno nel paese reagisce a modo suo, costretto a ragionare sulla propria transitorietà in questo mondo. Ma non ci sarebbero voluti ancora milioni di anni prima che accadesse una cosa del genere? La verità è che queste notizie o ipotesi arriveranno anche in paese. Ma qui le ipotesi bastano a creare dei problemi, tanti problemi. Il film presenta uno spaccato della vita in un paese di provincia con realtà molto diverse tra loro. E Fu sera e fu mattina in italiano con sottotitoli in inglese, domenica alle 16 al Babylon di Berlino. Martedì a Berlino, in occasione del centenario dalla nascita di Natalia Ginzburg, l'attrice Mechthild Grossmann leggerà alcuni testi della scrittrice italiana. Luigi Reitani, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura e organizzatore della manifestazione. La serata si svolge nel cortile dell'ambasciata, che è molto suggestivo ed è la prima volta che lo utilizziamo, è una cornice davvero straordinaria. Il programma prevede una lettura di testi dall'opera della Ginzburg in tedesco, che sarà fatta da Mechthild Grossmann, attrice molto nota in Germania, non solo per le sue interpretazioni teatrali, ma anche per un ruolo che ha nella fortunata serie di Tatort. Alla serata parteciperà anche il figlio di Natalia Ginzburg. Carlo Ginzburg è a Berlino per altre ragioni in questi giorni e l'abbiamo pregato di intervenire con un ricordo di sua madre. La cosa ci fa naturalmente molto piacere, sicuramente sarà un momento emozionante della serata e il suo intervento. Natalia Ginzburg nasce nel 1916 a Palermo e cresce poi a Torino. Ginzburg ha scritto romanzi, racconti, opere teatrali e saggi. La sua opera ha dato un nuovo impulso alla letteratura italiana contemporanea. Attraverso, direi proprio, l'anatomia del rapporti psicologici e di una famiglia italiana ha ritratto l'intera società del nostro paese e ha fatto anche una storia del nostro paese, cioè ha fatto del microcosmo della famiglia e delle relazioni interne della famiglia lo specchio di una società, mettendo, credo, molto l'accento sui ruoli femminili. L'omaggio a Natalia Ginzburg è martedì alle 19 presso l'Istituto Italiano di Cultura di Berlino. Mercoledì a Berlino la scrittrice Dacia Maraini incontrerà i suoi lettori per discutere di politica e di letteratura. Dacia Maraini è una fra le più importanti e influenti autrici italiane. Molti dei suoi romanzi, tra cui Bagheria e Voci, sono stati pubblicati anche in tedesco. Dacia Maraini sarà a Berlino presso l'Istituto Italiano di Cultura mercoledì alle 19. E questa era solo una scelta dei principali appuntamenti italiani in Germania. La lista completa la trovate sul sito funkhauseuropa.de. Poi, scegliendo Sprachen, cliccate su Radio Colonia e andate alla rubrica Appuntamenti. È tutto sterile ed asettico, dentro a questo imballaggio plastico, dove le bombole d'ossigeno sono razionate più del merito. Non basta un bel discorso per ritenerti assolto, non basta un documento per assumere un'identità. È tutto stabile e meccanico, dentro a questo ingranaggio cosmico, che lo ritrovo tra le costole a controllare ogni mio battito. Non trovo un percorso che mi stia bene addosso ed in realtà io non lo so se ne ho davvero bisogno, me l'hai messo solo in mente tu. Intro, dentro, verso giusto opposto, ma quando ti ricapita di stare zitto e smetterla di prendere opinioni in affitto. Senza doverlo dimostrare a te. Sono rinchiusa dentro al cellophane, con le mie valvole che scoppiano e la pressione tesa al massimo. Comprime il mio pensiero critico, non serve proprio a niente giocare sotto banco, ma non sei ancora stanco di dover svendere la tua integrità. Intro, dentro, verso giusto posto, ma quando ti ricapita di stare zitto e smetterla di prendere opinioni in affitto. Intro, verso, così mi riconosco in me, senza doverlo dimostrare, senza doverlo dimostrare, senza doverlo dimostrare. Senza doverlo dimostrare a te. E sono le 19:46 minuti, siete su Radio Colonia, sulle frequenze o nello streaming di Funkhaus Europa. Qualcuno di voi sarà già pensando a un bel viaggio per quest'estate al mare, o perché no, un viaggio per mare, che sarebbe il massimo. E allora, per iniziare a pregustarlo, ci viene incontro un cantante come Ivano Fossati, che dei viaggi ha un po' il chiodo fisso. Un suo album, Ventilazione, dell'84, fu quasi un concept album sul viaggio, e questa che ascoltiamo è Viaggiatori d'Occidente. S'accontenta e ti viaggia vicino, ma ti guarda da lontano, così provinciale da far vivere a New York quel tuo cuore disadattato, già molto meno lontano. Dove Bleecker Street dovrebbe incontrare la tua luna, è all'angolo dei quattro bar con le luci di nylon rosa. Fai un salto al caffè italiano perché non ti piace niente. Viaggiatori d'Occidente, viaggiatori d'Occidente. Come un finale da giardino dei ciliegi, lei ci pensa ma non lo chiama mai tornare a ieri. Amante del silenzio come chi torna da una guerra, poco convinto di appartenere a questa o a un'altra terra. Pensa alle terre greche e a una maggior fortuna, mentre in fondo a Bleecker Street lui sta aspettando quella luna. Lunghe pause al telefono da un altro continente. Viaggiatori d'Occidente, viaggiatori. Essere quell'uomo se quella donna s'addormenta al di là del mondo per farsi ricordare. I cuori difficili hanno sempre da dire più di quanto basterebbe dopo tanto parlare. Pensa tra le terre greche e ha una maggior fortuna, mentre in fondo a Bleecker Street lui sta aspettando quella luna. Mai più voci al telefono da un altro continente. Viaggiatori d'Occidente, viaggiatori. Europa. Lo sport. Che dire, è una finale ai quarti di finale, ma ci siamo abituati. L'ultima vera finale tra Italia e Germania è stata nel 1982 e vincendo abbiamo vinto anche il mondiale. D'altra parte, contro i tedeschi non abbiamo mai perso in tornei ufficiali, a cominciare dalla prima partita nel mondiale del 1962. È finita 0-0. Anche allora in porta c'era un Buffon, il cugino del nonno del nostro Gianluigi. Ha parato tutto quello che c'era da parare, ma non è bastato. Quel primo pareggio ha significato per gli azzurri l'uscita dal torneo, visto che due giorni dopo avrebbero perso nella famosa battaglia di Santiago contro i padroni di casa del Cile. Un altro pareggio che ci ha eliminati è stato quello agli europei del 1996, 0-0, e Zola che sbaglia un rigore. Ma a parte questi incidenti di percorso, il bilancio è sempre stato quello di partite che ci hanno garantito il passaggio di turno. Ma forse la partita che più ha segnato la storia di queste due squadre è quella del 17 giugno del 1970, la partita del secolo, finita ai supplementari per 4-3 a favore dell'Italia dopo diversi capovolgimenti di campo. È questa la partita che i tedeschi non dimenticano, il mito negativo che li imprigiona nella paura di perdere. Che ne dica Love. Wir haben kein Italien-Trauma, weil es ist auch eine andere Mannschaft jetzt und es sind immer wieder andere Voraussetzungen. Also ich halte davon nichts, wenn man irgendwelche Dinge dann aus der Vergangenheit irgendwie herbeizieht. Das ist kalter Kaffee. Ein frischer Espresso ist uns lieber und da müssen wir schauen, dass der uns am Samstag sehr gut schmeckt. A proposito di sabato, dopo la vittoria contro la Spagna, gli azzurri sono molto carichi, ma intanto non sono terminate le emergenze. Tra squalifiche, vedi Thiago Motta, e infortuni, il centrocampo va di nuovo ripensato, a meno che Candreva e De Rossi non riescano a recuperare. Speriamo bene. Conoscendo comunque Antonio Conte, non saranno di certo queste assenze a fermarlo. Ha molto da dimostrare e tanti sassolini da togliersi dalle scarpe e di certo non le manda a dire a chi dubitava di lui e della sua squadra. Ma io lo sapevo che i ragazzi hanno dentro qualcosa di importante fuori dell'ordinario. L'ho detto prima della partita, non dopo, perché dopo è facile dirlo. Adesso ci aspetta un'altra partita fortissima contro la Germania, veramente una partita tosta, però abbiamo dimostrato che l'Italia non è il catenaccio. Che l'Italia non sia catenaccio lo ha dimostrato anche il gol del difensore Chiellini contro la Spagna, ed è proprio lui che subito dopo la partita ha ribadito la portata e le difficoltà della partita di sabato. Adesso arriva il bello, siamo due grandi squadre, loro è chiaro che partono con i favori del pronostico, dovremo fare davvero qualcosa di straordinario, qualcosa in più di stasera, perché sennò non basterà per la partita di Bordeaux. Per quanto riguarda i tedeschi, dopo la battuta sul caffè freddo si ripromettono un 2016 senza lacrime, cito Thomas Müller, e dimostrano grande sicurezza, come ad esempio Mario Gomez. Wir glauben an uns, ich glaube, dass wir sehr gut dastehen und müssen das aber dann auf den Platz bringen und dann glaube ich können wir uns nach dem Finale hoffentlich wieder unterhalten und dann kann ich Ihnen sagen, dass es eine ganz tolle EM war. Bisher ist es eine gute, aber wir müssen es auch noch bis zum Ende durchziehen. Visto che purtroppo questa non è una finale, diamo un'occhiata anche alle altre squadre di questi quarti così sbilanciati. Questa sera ci sarà Polonia-Portogallo, ma i paragoni tra Ronaldo e Lewandowski ci sembrano esagerati. È come paragonare la Gioconda con un quadro comperato al supermercato. Sarà senz'altro più interessante la partita tra Galles e Belgio. Nei quattro incontri precedenti il Belgio non ha mai vinto, mentre adesso sembra essere il favorito e potrebbe rompere l'incantesimo. Chissà. La partita Francia-Islanda sembra invece non avere storia, ma dato quello che è successo all'Inghilterra, meglio non dire niente. C'è però una piccola azienda italiana che già da ora ha vinto insieme all'Islanda. Parliamo della RA, che fornisce le magliette della squadra. In questi giorni sono triplicate le vendite e stanno arrivando ordini da tutto il mondo. E così la piccola azienda parmense sta sconfiggendo il gigante Adidas. E questo era lo sport di Agnese Franceschini. Radio Colonia finisce qui. Io ringrazio Daniela Annosari che ha curato la trasmissione di oggi. Io sono Filippo Proietti e vi ricordo che domani per ascoltarci in diretta dovrete farlo in streaming, quindi dal computer e soprattutto dalle 18, non più dalle 19. A domani. Chapasu la shigera, keski ishi. Chapasu la shigera, keski ishi. Chapasu la shigera. Amo Milano perché quando il sole sorge, nessuno se ne accorge. Amo Milano perché non si nota, per l'Europa Italia, per l'Italia Europa. Amo Milano perché è un giardino degli Emirati e siamo tutti immigrati. Amo Milano perché ci trovi tutti i colori, gli esseri umani, i lavori, che sia bianco, che sia blu, che sia verde, che sia nero, basta che sia di neutro. Amo Milano perché è la capitale morale del commercio immorale. Amo Milano perché ti consegna tutto a domicilio, il cibo, le donne, un figlio. Amo Milano perché mi deprime ad un livello costante come un mutuo per le mie rime. Perché l'inquinamento è ambientale, è inutile smettere di fumare, per le siringhe e i mozziconi che trovi nei prati, che è come bere gratis. Amo Milano perché ha solo difetti, siamo venuti tutti a viverci di fatti. Amo Milano perché che vuoi farci, l'hanno cantata Dalla, Battiato, gli Annacci. Amo Milano per la cellula salafita, che poi era solo un allergico alla vita. Amo Milano perché la notte alle tre c'è chi fa l'aperitivo punte mes con cuvée. Amo Milano perché nessuno ti saluta, qualcuno ti valuta ma nessuno ti aiuta. E se provi a parlare dialetto si volta il resto del mondo e chiede chi hai detto. Che di notte mi emoziona come un amore grande che non funziona, bella da tagliarsi le vene i navigli per non fare sfigurare Venezia e Parigi. Ma tutto vale niente anche se costa caro e non vedi le stelle per la nebbia, per la fila planetario. Cinema de sé, cinema design. Amo Milano per quei e che lavoro fai, per gli zanza e le zanzare che ti portano via ciò che hai di personale. Amo Milano perché è un gesto di sfida al benessere, l'amianto è pure sulle fototessere. Amo Milano perché è un insieme di plagi e ovunque ti giri le lapidi per le stragi. Amo Milano perché non ci vivo più e il secondo col mio più diffuso è... Es ist Sommer in der Stadt und wir starten durch mit vielen neuen Ideen und neuen Angeboten. Jeden Abend eine neue Musikshow mit den besten Sounds der Welt. Von Latin über Reggae bis Afrobeat. Alle Sprachensendungen gibt's jetzt schon um 18 Uhr. Gleichzeitig im Netz und ab 20 Uhr im Radio. Wir senden jeden Tag auf Türkisch, Italienisch, Polnisch, Russisch und für Südosteuropa. Und neu dabei unser Angebot auf Arabisch. Lasst euch überraschen vom Cosmo Festival Sommer. Wir schicken euch zu den großen und kleinen Musikfestivals in ganz Europa. Das alles ab Juli bei Funkhaus Europa. Der Sound der Welt.